Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Posso leggere questo SMS? Sì. Che vedo qua. Complimenti, Luca Telese, sei il migliore, firmato Luca Telese. Non va. Qua è uno studio, un brainstorming ogni mattina, per esempio questo Run to the Jungle. Meloni, pensava veramente che ci fosse in giro una dichiarazione soft di La Russa su Ius Soli? No, impossibile. No, che ne so, con La Russa non si può mai sapere. Però, diciamo, no, ecco. Lei la sera la chiude la porta chiara. Sì, la chiude, allora? E la chiude per un principio di cosa? Per un principio di prudenza. Valerio da Udine, perché non parlate mai dei sondaggi siciliani dove il candidato del PD è dato all'8%? Valerio! Ne abbiamo parlato ieri. Anche la persona più intelligente di questo mondo nelle 24 ore la dice una cazzata. Beh, Giannino è una voce unica, è impossibile trovare una voce, cioè sai che ci sono voci simili nel mondo. Esatto. Ma Giannino è unico. E infatti... Ma anche esteticamente, eh. Magari! Bene. Magari! Io ho sempre quasi votato centrodestra. Ah, e diciamo, ora? Diciamo Berlusconi, va. E mi sono politicato con i miei familiari che votavano il PD. Io voglio che la becchina sia libera di pagare in tutti i modi, liquido, contante, assegno. No, sono contrario a far pagare a quel punto a chi deve incassare il 7%, il 5% su chi gestisce. Quanto erano belli questi accordi anni 80 di Vangelis, il mondo sognava con l'utopia negativa di Blade Runner, eravamo bambini, io almeno, anche Gio Violanti, no, tu avevi già combattuto le guerre del risorgimento. Come si chiamerà questa formazione di sinistra? Non lo so, a sto punto minchia. Come si chiamerà, Civati? Beh, non minchia, ecco, dovrei dare un messaggio di speranza agli elettori. Reach out and touch me. Eccoci qui, popolo già svegli, buongiorno, sono le 6.32 e 52 secondi e voi siete nel traffico, siete nel bagno, siete nel letto, ma siete svegli. E allora eccoci qui, 24 mattino, apre la sua giornata come sempre con un grande ospite che ci porterà dentro un dibattito molto contemporaneo, Aldo Cazzullo, con il suo libro, quasi un'invettiva verso i figli, metti via quel cellulare, e poi ovviamente le notizie della giornata. Come ogni volta, noi partiamo dal fritto misto. Trovo inaccettabile la dimensione di chi dice che se una donna si veste in un certo modo provoca, ma provoca che cosa? Cioè, noi dobbiamo aiutare i nostri giovani e le nostre ragazze a rispettarsi reciprocamente, per questo è importante iniziare dalle scuole, è a scuola, è in famiglia che si deve fin da subito parlare del rispetto dei due generi. La ragazza deve essere libera di vestirsi come vuole, non è possibile che la responsabilità ricada su di lei perché non si è coperta. Ma allora che cosa stiamo facendo? Invochiamo il burka? Cioè, io trovo assurdo il livello del dibattito su questo tema. La Boldrini, Laura Boldrini, Presidente della Camera, che risponde idealmente al Danna che avete sentito nel nostro riassunto di ieri. Era lui il deputato che aveva detto le donne si devono vestire. Country with where you can live longer and with the highest quality of life was Italy. Is this a good reason to it's not bad. Yeah, you It is a good reason, come parla l'inglese, la classe dirigente italiana, noi compresi, non la parla nessuno. Ha fatto un po' ridere poche ore prima l'intervento all'ONU, questo inglese stentato ma umanamente simpatico del premier Gentiloni. La casa ha cominciato a muoversi come se fosse fatta di gelatina, uscendo fuori della villetta dove siamo, dove abitiamo. Abbiamo visto proprio la casa che si muoveva spaventosamente. La situazione stava parecchio brutta. La casa, però, in Messico. Una casa che si è salvata per le norme antisismiche in Messico. E c'è un italiano dentro. Quanto è bello, quanto è grande il mondo. Spagna! Usted y sus lacayos en este mismo momento están deteniendo a cargos electos catalanes. Stanno arrestando dei cittadini catalani, degli eletti, ed è il grido di guerra di Gabriel Rufián, deputato indipendentista, che dice a Rajoy, traduco: lei e i suoi servi avete arrestato funzionari catalane colpevoli solo delle loro idee. La rabbia indipendentista arriva dalla Spagna quando meno ce l'aspettiamo. Se finalmente si dicesse apertamente il Partito Democratico non è autosufficiente, se si dice apertamente che il candidato premier non sarà il segretario del Partito Democratico, perché quando c'è e si vuole realmente fare una coalizione, si fanno le primarie, si trova la mediazione, si trova la sintesi. Quando si dice il candidato premier sarà il segretario del mio partito, vuol dire che si vuole andare avanti da soli. Io credo che bisogna andare avanti insieme. Il fantastico mondo di Pisapia, puntata 14. Oggi Pisapia è antirenziano, ieri era filorenziano, domani sarà di nuovo filorenziano. È bella questa telenovela della politica italiana, distrutta dalla satira di Crozza. E andiamo a Gene Gnocchi. Alle 22, ve lo dico io, in trasmissione interverrà niente po' di meno che il leader nordcoreano Kim Jong-un, che terrà ai grillini una lezione di democrazia, ok? Via. No, era Gene Gnocchi da Floris, la sua copertina e la battuta perfida sulle primarie dei 5 Stelle. Ma adesso l'ho annunciato, è qui Aldo Cazzullo, già sveglio, buongiorno. Buongiorno Luca, un saluto a tutti gli ascoltatori. Com'è il ciclo biologico di un grande intellettuale italiano che fa anche il giornalista? A che ora ti svegli di solitamente? Ah, questo non lo so, io non sono affatto un grande intellettuale italiano. Italiano è vero, lo so, resto, no, per cui. Vabbè, so com'è il ciclo biologico? Che ciclo biologico hanno? Di io Aldo Cazzullo. Al mattino, sì? Ah, cioè normalmente tu che cosa fai? A letto fino alle 10? La domenica, non so. Cioè che poi noi finiamo di lavorare tardi, sì. E comunque il lavoro ti dà sempre un po' di adrenalina, quindi non riesco mai a andare a dormire presto. Senti, questo capolavoro che hai scritto, lo dico perché certi libri hanno una predestinazione, e metti via quel cellulare, secondo me tu l'hai scritto pensando a mio figlio, perché non posso credere che ci sia una tale consonanza, lo sfogliavo ieri, fra i problemi che hai affrontato con Rosana e Francesco, che sono i tuoi figli, firmano con te il tuo libro. Ti informo che oggi sul Fatto sei anche attaccato, per il servizio del TG1, in cui si dice c'erano pure i figli con i messaggini, ma questo è il certificato di notorietà. È stata definita esagerato che ci fossero i tuoi figli del TG1, ma sbaglia, non hanno letto il libro perché sono protagonisti. È un dialogo proprio anche di scrittura fra il padre rampognoso, questo sì, e i figli ribelli che dicono no, papà ti spieghiamo noi perché il mondo va bene così. Allora come lo presenti? Metti via quel cellulare. Ma appunto è un dialogo scritto con i miei figli. Ma li hai scritti un po' tu o è tutto proprio loro? Se avessi parlato da solo sarebbe stato un'invettiva, sarebbe stato un predicozzo. Io sono molto preoccupato dell'uso eccessivo che non soltanto i miei figli ma tutta la loro generazione fa del cellulare, ma anche noi ne facciamo un uso eccessivo. Siamo noi che siamo stati contagiati dal narcisismo e rischiamo di trasmetterlo anche a loro. Però poi io voglio ascoltare anche la loro voce, non voglio cantarmela, suonarmela da solo. E loro mi dicono una cosa che per me è importante, che trovo anche sfidante per tutti quanti noi: il cellulare spesso è un alibi. E infatti ti voglio leggere prima, subito, il primo intervento di Francesco e Rossana. Papà, non è possibile che tu non ci abbia dato retta. Te l'avevamo detto in tutti i modi di non scrivere questo libro. Finirai per farti odiare dalla nostra generazione e anche dalla tua. Continuerai a vendere i tuoi libri soltanto alle signore anziane. noi non metteremo via il cellulare, almeno non quando ce lo dici tu. Ogni rivoluzione ha avuto i suoi haters, i suoi odiatori, i luddisti volevano distruggere il vapore, il treno era un'opera di Satana, c'erano quelli che non volevano viaggiare in automobile, quelli che si rifiutavano di salire sugli aerei. Tu, papà, dici sempre che il futuro è l'unico posto in cui possiamo andare, però ce l'hai con la rete e pure con la corsa allo spazio. Come rispondi a questa obiezione di Rossana e Francesco? Io resto convinto che la rete e il cellulare siano il più grande rincoglionimento di massa nella storia dell'umanità. Perdiamo lo sponsor. Però loro mi sfidano, nel senso che dicono: guarda che papà, il cellulare è anche un alibi per voi adulti, perché non riuscite più a parlare con i figli e quindi mettete loro in mano il cellulare, esattamente come quando da piccoli voi venivate messi davanti alla televisione. E temo che questo sia abbastanza vero. Però partiamo anche con le tue ragioni, la sventagliata dei non è possibile. Non è possibile che quando andiamo in pizzeria, anziché i vostri volti, mi veda sempre davanti i vostri cellulari. Non è possibile che quando entriamo in un albergo, come prima cosa, voi due, Francesco e Rossana, chiediate qual è la password del wifi. Non è possibile che ovunque si vada all'estero, in Liguria, dai nonni, voi due portiate dietro il vostro piccolo mondo chiuso nel telefonino. Vi ricordate quella gita in Provenza? I campi di lavanda in fiore erano bellissimi, ma voi non li guardavate, eravate sempre lì, chini sui vostri cellulari. Vi ricordate domenica scorsa a casa dei nonni? Eravate assenti, distanti, tutti presi dagli smartphone. E però loro ti rispondono: sì, ma noi, grazie a internet e a Google, ti abbiamo fatto scoprire la lavanda. Sì, infatti, effettivamente io non sapevo neanche che esistesse la fioritura della lavanda. Mi hanno fatto vedere le foto su Instagram, anche perché noi parliamo molto di Facebook e Twitter, ma loro parlano soprattutto di Snapchat e di Instagram. Mi hanno fatto vedere queste foto, ci sono detto: andiamo a vederle insieme. No, ma non c'è dubbio che il telefonino e la rete siano una straordinaria opportunità, chi lo nega? Però sono anche un vortice che ti risucchia. Quando noi eravamo ragazzi, conoscevamo la noia, i tempi morti, la fantasia. Esercitavamo la memoria, no? Adesso non serve più, c'è Wikipedia. Ecco, questo e poi c'è appunto questo, sì, vortice che ti prende e quindi ti ritrovi come il precetto nella ruota a saltare da un post. Questa mi sembra la cosa più feroce. Fotografi, filmi, e poi non hai più tempo per vivere. Allora, virtuale assorbe quella reale. Mentre grazie al cellulare ci arriva un meraviglioso messaggio di Valdimiro che dice: ci ascolta mentre sullo scoglio a pescare sta albeggiando, magnifico spettacolo, vi ascolto con piacere aspettando. Ecco, mentre accade questo, grazie a un cellulare riceviamo questa comunicazione da Valdimiro sullo scoglio, ti voglio chiedere proprio il punto più forte, secondo me efficace, della tua inventiva. Tu dici: sono intelligenti, sono inventivi, sono brillanti, sanno 100.000 cose, compresa la fioritura della lavanda, però questi ragazzi non hanno più la soglia della concentrazione. I film che noi facevano ridere, ed è vero, lo vedo anche con mio figlio, a loro sembrano lunghi e noiosi. Eh sì, perché un film dura 2 ore, e per loro 2 ore sono un tempo infinito, perché sono talmente abituati al ritmo accelerato di WhatsApp o di YouTube, dove un filmato dopo 2 minuti è annoiato, che è un film intero che dura 2 ore, non finisce mai per loro. Anche film che sono dei fuochi di fila di trovati, i film di Spielberg. Una volta fammi un esempio: i miei figli, Piccolo Grande Uomo, ti ricordi quello? Certo, Dustin Hoffman, meraviglioso. Prima fa il cowboy, poi va con gli indiani, poi torna con il cowboy, come più Pia, no? No. E quel film lì per loro è stato noioso. Dice: papà, dura 2 ore e mezza. 2 ore e mezza per loro sono troppe. Secondo te è una cosa che supereranno crescendo, recupereranno quella soglia di attenzione? Ormai è proprio una differenza fra la nostra generazione e la loro, come eravamo diversi noi e i nostri nonni che avevano fatto le guerre? Beh, sicuramente c'è una differenza enorme tra le generazioni, ma i veri nativi digitali, tuo figlio Enrico che ne ha? Ne ha 11. Non so se lui vive dei ragazzini di 5-6 anni, loro sono i veri nativi digitali, cioè noi con i nostri figli abbiamo giocato ad acchiapparello o a nascondino prima che alla Wii o alla PlayStation, hanno imparato a leggere e scrivere prima di usare l'iPhone e l'iPad. Questi ragazzi, i ragazzini di adesso, stanno imparando a usare l'iPhone e l'iPad prima di leggere e scrivere. Sì. E questo secondo me farà di loro una generazione quasi mutante, cioè sarà una rivoluzione. Guarda, c'è un capitolo, si intitola Gutenberg era Marzullo al confronto, detto, volete, con simpatia del Marzullo, perché la rivoluzione gutenbergiana fu pazzesca, cioè i libri non si scrivevano più ma si stampavano, ma erano sempre gli stessi libri. Dante restava Dante, la Bibbia restava la Bibbia. E invece Dante su WhatsApp cambierà anche i libri, perché un libro presuppone amore, tempo, concentrazione. ore, giorni. I libri non li leggerà più nessuno. E infatti mi colpisce quella riga in cui dici tutta la cultura del Novecento, dell'Ottocento, il Rinascimento, tutto il Medioevo, tutta la storia viene tritato dentro WhatsApp. Ci fermiamo solo un attimo, traffico, e torniamo con Aldo Cazzullo a parlare di cose serie. Mattino. I già svegli. Pronto, buongiorno. Sono un insegnante che va a scuola presto. Sono nella scuola dal 1976 e non posso a questo punto andare in pensione perché per la Fornero sono giovane, ho solo 63 anni. Posso dirvi una cosa? Mi sono rotto le palle di avere a che fare con politici stupidi e di gente che va in giro raccontando palle. Sono Domenico da Roma, un già sveglio dalle 6 e mi porto dietro questa insana ma utile abitudine da 30 anni, da quando per entrare in tempo al liceo Visconti, se non eri un fighetto di Monteverde Vecchio, di Rione Monti, dovevi alzarti all'alba e prendere due autobus. Buongiorno a tutti, io sveglio presto perché sono un addetto mensa, quello che dà da mangiare ai vostri figli nelle mense scolastiche. Mi sveglio presto, alle 7 devo stare al lavoro, lavoro dal 1991, andrò in pensione probabilmente chissà quando. Stavo pensando che uno dei 22.000 forestali siciliani potrebbero andare a sorvegliare i pronto soccorsi siciliani. Che ne dici? Adesso dormo meglio. Ecco, buongiorno. Io le spiego perché sono già incazzata, poi non le telefono più. Oggi è una delle puntate più belle dei Già Svegli, che idealmente è il grande romanzo dell'Italia che lavora. E voi potete partecipare con il vostro messaggio allo 02465244 92. Allora torniamo, stiamo parlando con Aldo Cazzullo, stiamo parlando anche di quello che è accaduto oggi. E oggi Aldo, così non devo neanche leggerlo, abbiamo, come dire, l'autore dell'articolo, ci racconta che sta succedendo in Spagna con un rischio secessione che è molto vicino. Aldo? Io cerco di raccontare lo sai che la mattina hai dei tempi di reazione un po' da Bradipo quei due secondi. Non posso parlare io perché tu mi hai detto che l'ascoltatore smeglio di quanto non posso fare io. Era una battuta. Ieri c'è stata questa retata di quei dentisti a Barcellona. Ho cercato di raccontare la diffidenza e la rivalità secolare che c'è tra le due città, tra i due mondi, anche se poi Javier Cercas, che è l'autore dei Soldati di Salamina e Anatomia di un istante, lo ritengo il più importante scrittore civile di Spagna, forse d'Europa, dice che in realtà catalani e castigliani oggi si assomigliano molto di più di quello che pensano. E Cercas racconta un episodio che trovo bellissimo. La sua famiglia è estremegna, cioè della regione più povera della Spagna, trasferita in Catalogna, che è la regione più ricca della Spagna. Poi d'estate si andava al paese a trovare i nonni e allora il piccolo Javier chiede al papà, faceva il veterinario: papà, ma quando è che finisce la Catalogna e comincia la Spagna? Il papà rispose: là dove i bagni non sono più puliti ma sono sporchi, lì comincia la Spagna. Oggi, finisce Cercas, i bagni sono puliti dappertutto, in compenso la politica è diventata cleptocrazia, corrottissima. È sporca dovunque. Sì, a Madrid. Fantastico questo riassunto, mentre abbiamo sullo sfondo Marvin Gaye, ci chiedete sempre che cosa mettiamo, è bella musica, noi siamo un po' blues la mattina, e mentre sentiamo A Herd to Eat to the Graph Wine, vi facciamo entrare dentro una polemica, è una doccia, immaginate qual è una di quelle che corrono in queste ore in forma di video nei telefonini dei vostri ragazzi, e la doccia che ha creato scandalo, la doccia del grande fratello VIP con la signorina Rodriguez. E al telefono stiamo cercando Elisabetta Scala del Moige, che si è imbestialita e ha detto che il grande fratello VIP con questa doccia ha rovinato le coscienze dei nostri ragazzi. Allora, prima di sentire Cazzullo, sentiamo Elisabetta Scala del Moige. Moige, pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma voi siete, veramente, siete dei bacchettoni fantastici. Io non so quanto tempo passate a vedere TV Spazzatura. Non ce ne saremmo neanche accorti, noi adulti, della doccia di Cecilia Rodriguez con Super Bidet Volante. Siete voi lì a vigilare. Non credo proprio, perché siamo stati inondati letteralmente di chiamate al nostro numero verde e di mail di protesta da parte di grandi, adulti, ragazzi, di tutti i tipi, quindi penso che se ne siano accorti. Allora facciamo un referendum istantaneo, se anche voi siete indignati per la doccia della Rodriguez, 349-238-6666, pronunciatevi in diretta, prego. Ottimo. Perché lei è scandalizzata? Beh, mi perdoni, ma non è proprio un alto livello di televisione questo. È bassissimo, però... Se bisogna fare un programma che faccia ascolti così, e non è che parliamo insomma di Rete Casa, insomma di una televisionina che magari si basa su una serie di numeri di un certo tipo. Ho capito, ma qual è la cosa che l'ha turbata? È basso, non mi piace, ma molte cose che non ci piacciono non devono essere proibite. Vabbè, qualche adolescente si sarà entusiasmato con la Rodriguez che fa il bidet sotto la doccia. È anche una cosa un po' strana, però secondo me è una cosa inventata sperando che il Moige si arrabbi. Questa è la mia idea sugli autori del Grande Fratello. Guardi, questa cosa l'abbiamo pensata anche noi, perché chiaramente ogni volta che uno contesta per un qualche motivo, in qualche maniera fa pubblicità. Per quello molto spesso non è che ci vedete intervenire tanto, eppure la TV Spazzatura è tantissima. Noi molto spesso interveniamo sotto, no? Diciamo, chiedendo il rispetto della TV, del codice TV ai minori che esiste ancora, anche se non esiste un comitato che lo fa rispettare, ahimè, perché è scaduto da 2 anni e non lo rinnovano. Ma il codice esiste, quindi noi chiediamo solo questa applicazione e lo facciamo su tanti programmi, cerchiamo di avere un rapporto anche aperto e cordiale con tutti quelli che fanno rete. Ne premiamo anche tanti, perché c'è anche ottima televisione, va valorizzata, anche se fa meno notizia questo. Però ogni tanto qualcosa bisogna dirla, perché quando si va veramente a toccare non il fondo, ma di più, perché pensavamo che il Grande Fratello ci avesse già fatto vedere tutto. Bene, allora la fermo solo un attimo, perché ho la pubblicità e voglio sentire Cazzullo su questo, perché è una mia teoria. I messaggi sono impietosi per lei, nel senso che sono tutti adoratori della doccia, ma questo non fa testo, questo pubblicito non fa testo, viva la Rodriguez, doveva farla nuda la doccia. Aldo, io ho una mia teoria, penso che il Grande Fratello di oggi sia l'equivalente della commedia sexy degli anni 70-80, sono gli eredi, la Rodriguez è l'erede di Edvige Fenech. Allora, non vorrei riportare tutto quanto la rete al cellulare, ma temo che i ragazzi oggi vedano ben di peggio, temo che l'educazione sentimentale sia affidata al porno, e le due attività che prendono più tempo online sono il porno e i videogiochi, che sono attività che si fanno chiaramente da soli, altro che social. Ecco, allora di la tua sui videogiochi. Connesso, diceva Bauman, aveva ragione. Racconta, perché quello è il capitolo più interessante, sulla vexata questio, sulla grande polemica videogiochi sì, no, con il cronometro, che cosa pensi? Io ricorderò sempre qualche anno fa scrisse su Io Donna un articolo molto moderato di critica ai videogiochi, ho ricevuto in pochi minuti 400 messaggi. 5 erano mamme preoccupate come me per i loro figli, 5 erano videogamer che mi auguravano di la morte presto, ma non subito, bensì tra atroci tormenti, e però motivavano questa maledizione dicendo: videogiochi ormai sono creativi, sono interattivi. Gli altri 390 si limitavano ad augurarmi di morire tra atroci tormenti, ma senza specificare perché. Erano tutti maschi, nessuno aveva letto Io Donna, tutti avevano letto un post che qualche avvelante aveva appunto che postato. Era arrivato molto più lontano. Bene, grazie Aldo Cazzullo, il libro Metti via quel cellulare, lo ricordiamo, è di Strade Blu Mondadori, i tempi sono tiranni, ma ti risentiremo presto. Grazie Aldo.